Corso di ebraico biblico. Lezione 2. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 1. Elle ha-devarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever ha-yarden, ba-midbar, ba-arava, mol suf, ben paran uven tofel, u'elavan, Wa Chatzerot Wedi Zahav. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 10. Adonai Elohechem hirba etchem, ve'innechem hayom, ke chocheve ashamaim larov. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 22. Nishlecha Anashim lefanenu, ve'yachperu lanu et ha'aretz. Deuteronomio, capitolo 1, versetto 39. Ve'tappechem asher amartem lavaz hiye, uvenechem asher lo yade'u hayom tov wara, hemma yavou shamma, ve'lahem Et tenenna wehem irashua. Uno re, capitolo 17, versetto 19. Wayomer eleha, teni li et benech, wayakehehu me hekah, wayaalehu el haaliha, asher hu yoshev sham, wayashkivehu al mittato. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 1. Wannefen, wannissa, amidbara, derech yam suf, ka asher diber Adonai elai. Wannasov et har seir, yamim rabbim. Deuteronomio, capitolo 1. Versetto 7. Penu useu lachem, uvohu har haemorri, ve'el kol shechenav, ba'arava, bahar, uvashefela, uvanegev, uvechof hayam, eretz akkenaani, ve'hallevanon, ad annahar agadol, nehar perat. Deuteronomio, capitolo 2, versetto 1. Wannefen, wannissa, amidbara, derech yam suf, ka asher diber Adonai elai, wannasov et har seir, yamim rabbim. Deuteronomio, capitolo 4, versetto 6. Ushemartem, Wa asitem ki hi chokmatchem uvinatchem le'ene ha'amim asher ishme'un et kol ha'chukim ahelle ve'ameru rak am chacham ve'navon agoi agadol adzeh.